pieno lo stupore prodotto da un gesto semplice di cortesia. Tenere stretta una vita al guinzaglio per aumentare la felicità. Rendersi conto che non è uno sbaglio, una preghiera, una poesia. Restando attenti a non ferire l'orgoglio di chi ci ascolta e non vuol vedere più là. La vita in fondo non è poi che un regalo, per altri è solo una banalità. Amici e complici che fuori dal letto, grande spettacolo di varietà. Si può anche dire che il giocattolo è rotto, sia pronto da buttare via. Siamo tutti figli di un paese corrotto, che sa tutto di tutti tranne la verità. Sì, da soli si muore, e piovono lacrime, sangue e giudizi sulle persone, sugli innocenti e sui fatti tuoi. Crollano case, palazzi, rinascono i fiori, sulle ingiustizie e su mille dolori. In fondo non è che un baratto, per altri è solo una banalità. Amici e complici anche fuori dal letto, grande spettacolo di varietà. Si può anche dire che il giocattolo è rotto, sia pronto da buttare via. Siamo tutti figli di un paese corrotto, che sa tutto di tutti tranne la verità. Sì, da soli si muore, piovono lacrime, sangue, giudizi sulle persone, sugli innocenti e sui fatti tuoi. Su mille dolori è come avere un peso al collo, sentirsi sempre sotto controllo, e fai fatica a distinguere chi fa del bene veramente e non lo fa per farle il male a te. Sì, da soli si muore, piovono lacrime, sangue, giudizi sulle persone, sugli innocenti e sui fatti.